Allora, 105.250, siamo pronti con la prima diretta che riprende la notizia che già abbiamo dato dal GR, insomma, ancora fuochi di rivolta dentro il CIE di Torino. Cosa è successo questa notte? Ciao! Allora, ciao, io volevo salutare tutti e tutti e raccontare quello che è successo ieri all'interno del CIE di Torino. Cercando poi di inserirlo all'interno della situazione all'interno del CIE nell'ultimissimo periodo. Allora, ieri sera intorno alle 22 i reclusi di quella che viene chiamata l'area blu del CIE, che è l'unica area interamente funzionante del CIE, hanno protestato contro la loro situazione di reclusione e contro le continue vessazioni che sono costretti a subire, danneggiando tre stanze all'interno della quale erano rinchiusi. Quindi i ragazzi che dormivano in queste stanze le hanno danneggiate rendendole interamente inagibili. Adesso queste persone senza documenti sono stati messi all'interno della mensa dell'area. Hanno dormito tutta la notte là e al momento si trovano ancora all'interno della mensa, e anzi loro stessi hanno cercato di rimanere uniti e di non uscire, di non essere portati al di fuori della mensa, in modo poi da non essere sparpagliati nelle altre aree e non essere portati altrove in questura o insomma da altre parti. Allora, ricordiamo appunto che l'area blu era l'area che era stata riaperta da pochissimo, era stata riaperta a dicembre dopo delle lunghissime ristrutturazioni che l'avevano riportata a funzionare interamente. Infatti l'area era stata danneggiata, precedentemente era danneggiata da rivolte di altre persone che erano transitate all'interno del CIE, quindi diciamo che questo è un grande smacco per l'ente gestore e per la direzione, che vede distrutta dopo qualche mese l'area, l'unica area agibile, che era composta da 5 stanze, mentre poteva ospitare dalle 25 alle 30 persone, mentre adesso sono agibili soltanto 2 stanze. E appunto ricordiamo, allora, quante persone magari stanno nel CIE in questo momento, visto che la struttura è molto danneggiata. Allora, sì, il CIE può contenere potenzialmente 180 persone, mentre adesso ci sono 60 persone, e adesso magari nella giornata di oggi si capirà un po' quale sarà la sorte di queste persone che sono rinchiuse all'interno della mensa, anche perché non penso che le potranno tenere là, e quindi più o meno prossimamente il CIE potrà contenere sulle 45 persone rispetto alle 180 originarie potenziali. Bene, e magari rilanciamo l'appuntamento di domenica, visto che era previsto un presidio per dare solidarietà, a maggior ragione che i ragazzi dentro sono sempre recalcitranti e mai, insomma, mai fermi e sempre pronti a ribellarsi. Possiamo approfittare per rilanciare questo appuntamento? Sì, allora io volevo ricordare che il 10 aprile c'è appunto l'appuntamento, il presidio fuori dalle mura del CIE, che si tiene alle 4, alle 16, tra Corso Brunelleschi e Via Monginevro, nel tratto appunto adiacente al CIE. Sarebbe appunto, come stavi dicendo, importante esserci, perché la situazione all'interno del CIE è diciamo molto calda, ci sono rivolte, ricordiamo appunto, volevo dire che questa rivolta all'interno dell'area blu è stata l'apice di una serie di piccole insubordinazioni e proteste quotidiane. Soltanto pochi giorni fa i ragazzi rinchiusi in quell'area avevano rifiutato il visto, e diciamo che ci sono proteste e tentativi di resistere alle espulsioni che se non sono giornaliere sono quasi quotidiane. Volevo ricordare una cosa, che questa rivolta è stata la seconda rivolta che c'è stata all'interno del CIE di Torino da circa un mese e mezzo a questa parte. Infatti il 14 febbraio i ragazzi rinchiusi all'interno dell'area bianca avevano distrutto 2 stanze di quell'area rendendola totalmente inagibile. La situazione all'interno del CIE dal 14 febbraio ad oggi diciamo si sta un po' è stata caratterizzata da un tentativo da parte della direzione dell'ente gestore di mettere in pratica una differenziazione tra i reclusi che cercano di protestare contro, contro la, la loro situazione, invece quelli che hanno una condotta, diciamo, più, diciamo più tranquilla. Più tranquilla, sì. E quello che è accaduto dal 14 febbraio ad oggi è che delle proteste, dalle rivolte che hanno portato al danneggiamento delle stanze, ma anche piccoli atti di protesta come il rifiuto del vitto, siano stati puniti con la reclusione delle persone all'interno di quella che viene chiamato isolamento ospedaletto. L'ospedaletto isolamento è un'area che normalmente viene utilizzata come una qualsiasi altra area, mentre dal 14 febbraio le persone rinchiuse là dentro, gli è stato impedito di uscire al campetto, sono stati ritirati dei telefoni. Diciamo che l'isolamento è stato utilizzato come una funzione punitiva e come deterrente per gli altri reclusi che, come tentativo di deterrente per gli altri reclusi che pensavano a ribellarsi, a, diciamo, sì, quindi, a protestare. Appunto, una situazione che all'interno del CIE pare essere, non so, la polizia ha particolare attenzione a far sì che le cose stiano calme. Una situazione che si ripercuote anche fuori, infatti di questa settimana la notizia che qualche solidale che era andato, insomma, a salutare in maniera improvvisata sotto le mura del CIE i reclusi e si è stato poi fermato, è stato fermato in due occasioni dalla polizia, e questi due fermi hanno portato all'espulsione di tre compagni, due francesi e un ragazzo spagnolo, appunto, che non avevano attraverso la pericolosità sociale hanno avuto questo decreto e sono stati rimandati in Francia. Rispetto a questo c'è appena arrivato un messaggio che dice: un saluto, un abbraccio ai compagni d'Oltralpe espulsi, per il saluto al CIE, liberi tutti, fuoco ai CIE. Va Senti, bene. Ma da quando la gestione del CIE GEPSA non si è mai arrivati ai 180 ospiti possibili? No, si è arrivato massimo a 90 posti quando avevano rimesso a posto l'area blu, e insomma non c'erano ancora state queste ultime rivolte, si è arrivati a 90 posti, alla metà della capienza, e adesso si è arrivati a fino a ieri 60, adesso 45 posti, quindi non è mai stata campionata. Ah, questo va sottolineato perché lo ricordiamo, insomma, i gestori dei CIE guadagnano in base ai posti occupati all'interno del CIE, quindi da questo punto di vista le rivolte portate avanti all'interno del CIE non solo, come dire, limitano i fermi per la strada e la conduzione delle persone nel CIE, perché nel CIE non ci sono posti, e quindi questo si ripercuote fuori in maniera positiva, ovviamente, ma in più incide pesantemente su dal punto di vista economico sui gestori, e anche questo è un dato assolutamente positivo da rimandare. Ah beh, sì, diciamo che diventa sempre un affare sempre meno sicuro, meno appetibile per gli enti gestori. Di fatto ci sono delle rivolte che per fortuna mettono il bastone fra le ruote al loro guadagno, a questo mercato. E riguardo al fermo che stava dicendo prima Silvio, volevo ricordare che l'ultimo fermo oltretutto è avvenuto con una camionetta che è uscita dall'interno del CIE dopo pochi minuti, quindi diciamo che è un tentativo forte da parte della direzione è quello di cercare di tenere totalmente isolati i reclusi e di non dare ecco a quello che succede all'interno del CIE. Infatti io volevo ricordare appunto l'appuntamento che si terrà il 10 aprile alle 14 e ribadire appunto la sua importanza per cercare di essere tanti, di poter star là per un paio d'ore insieme ai reclusi del CIE, sentendo della musica, facendo degli interventi e appunto non facendoli sentire isolati, e cercando di sostenere le loro rivolte e dare loro solidarietà. Va bene, grazie allora per questo aggiornamento. Poi nel momento in cui si avranno notizie altre, poi magari ci possiamo anche risentire. E appunto invitiamo tutti a partecipare al presidio di domenica e noi ci salutiamo. Okay, grazie ancora. Un saluto a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao.